concia nascerò, non me li affanni, e ti congiurerò tutti ogni danni. Vorrei nascondermi, tutti vorrei, nel cielo i fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, mi fa tremar, nel cielo i fulmini, mi fa tremar. Ui, colgia l'angelo, dammi gli affanni, che ti congiurano tutti ogni danni. Vorrei nascondermi, fuggir vorrei, nel cielo i fulmini, mi fan tremar, mi fan tremar, mi fan tremar, e ti affanni, tutti congiurano, tutti ogni danni. Vorrei, vorrei, vorrei nascondermi, vorrei, vorrei, vorrei, fuggir, ui, cogia l'acero, dammi gli affanni, tutti ogni danni. Del cielo fulmini, mi fan tremar, mi fan tremar, del cielo fulmini, mi fan tremar. Divengo stupida nel colpo atroce, non ho più lacrime, non ho più voce. Non posso piangere, non so parlare, non ho più lacrime, non ho più voce. Non posso piangere, non so parlare, non so vorrei nascondermi, fuggir vorrei, del cielo fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, del cielo fulmini, mi fa tremar. Ui, cogia l'acero, dammi gli affanni, e ti congiurerò tutti ogni danni. Vorrei nascondermi, fuggir vorrei, nel cielo fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, mi fa tremar, e gli affanni, tutti congiurerò tutti ogni danni. Vorrei, vorrei, vorrei nascondermi, vorrei, vorrei, vorrei fuggir, ui, cogia l'acero, dammi gli affanni, e tutti ogni danni. Il cielo fulmini, il cielo fulmini, mi fa tremar, mi fa tremar, mi fa tremar, il cielo fulmini, mi fa tremar.